posso fare questo qua, allora mettiamo un po' le cose a posto. Io sto dicendo, quando portiamo l'altro, la 7, le polarità di quello vanno invertite dall'interno, e infatti è uguale a quello che ti ha fatto il mobico, stessa connessione del mobico. Il nuovo e tu puoi usare l'MB più 5 anche con la 87, capito mi hai? Capito, ma queste cose bisogna dire dove portiamo a fare la parata, diciamo, poche parole. Roberto lo sa già, quando le porto l'apparato lui fa la connessione dell'ala 48, tu adesso nel mobico c'hai la connessione dell'ala 48 e Roberto quando ti fa 87 ti fa la stessa connessione dell'ala 48, così tu puoi usare l'MB5 anche con quello. Ah, gatta, positivo, ho capito. E se no abbiamo fatto niente, il mobico l'abbiamo portato a fare le connessioni nuove a 4, eliminate quelle vecchie, e tu praticamente c'hai la connessione dell'ala 48 adesso sul mobico. La stessa cosa va fatta l'ala 87, la stessa connessione del mobico. Il nuovo e tu, quando non vuoi scegliere l'eco e non vuoi parlare col microfono normale, no? Perché con l'eco si parla col microfono normale. Prendi l'MB più 5 e lo attacchi alla 87, il problema è risolto. Oliver! Positivo. Positivo è capace. Ah, tutto gran parlare positivo, ci siamo capiti. Adesso questo è fatto. Adesso domani mi metto d'accordo con Gigino, facciamo colpo di telefono a Roberto, vediamo come è messo. Dopodiché tu moduli con quello lì, che va benissimo, e mandiamo l'87 a fare la maggiorazione. Positivo, positivo. Ciao, Roger. Vabbè, non seguo te tu, o ti tiro un mosso orecchie. Troppo contento, anzi, troppo contento, ci mancherebbe altro. Non ti preoccupare tu, mio Claudio, stai sereno e tranquillo e continuiamo a piantare le mattonelle. Non puoi spingere sul microfono, Claudio, no? Tanto si spinge la canonata, ma io ti sentivo sempre con quello lì, ci avevi l'adattatore, però ti sentivo sempre, va bene. Positivo, positivo. Sì, vabbè, la letteralità l'hai giusto, ho detto tu, a mettere così, se no magari col mobico che spinge meno, distorgeva troppo così. No, non spinge meno il mobico, da 8 volte, 10 volte non cambia niente, tanto vuoi sapere che cambiano 2 volte. E da 10 a 20 puoi cambiare, ma da 8 a 10 cosa cambia? Non cambia assolutamente niente. Poi se mi si girano i primissimi, se ne porta la gabbia, le facciamo portare 15 watt in quel mobico. Gatta, gatta. Ma ti chiedi il buon messaggio? Mi sono dimenticato di dirlo, mi sono... faccio distante dal microfono? Se ti avvicini è ancora meglio, ma già va bene anche così. Avvicinandomi com'è? Spinge di più, ma non c'è problema, va bene anche così. Ma è cappa di roccia. Andrà bene, vera. Va bene, ha fatto un ottimo lavoro, Hai voglia. Ha voglia che va bene. Sentiamo che sono parlando con questo. Molto chiara la modulazione. È perfetta, no? Ehi, un bel forte. È positivo, ripassiamo in AM. Ehi. Ciao la gara. Andrà bene, vera. Ma spiegami una cosa, perché le FM non smette se fermo l'età? Perché così, è regolato così. L'FM non te lo dà il massimo della potenza, capito? Poi controlla tu, ma è messo in rose, metto watt, metto pure potenza. Mi pare che c'è la regolazione, è quello no. Ma lo saprei, no, ma lo fa anche col mobico, si ferma la lancetta lì, si ferma e non va su e giù, si ferma a metà, diciamo, dello smitter. Allora, va bene, non c'è problema. Che fermaco era il microfono al tavolo, lo vuoi trattare? Ehi, lo stavo trattando lo stesso, ma avevo le connessioni a 5 punte, ma mi dava troppo fastidio, perché non potevo mettere anche il microfono, capito? Che cos'è che c'aveva? Aspetta, però io ho il palmare dell'80... non posso metterlo al mobico. Il palmare, volevo provare il palmare, ma non posso metterlo perché c'è le condizioni diverse. No, quello non puoi metterlo. No, perché c'è le condizioni del mobico, hai ragione. Dopo di roccia. Si conferma. Ehi, c'è ragione, avevo fatto le condizioni per la 87. Ma già va bene, adesso lo porteremo, si farà tutte le cose là. Adesso quando lo portiamo quello diventa un 87 terrorista. Ma se non mi piace qua. Thank you. polizia, siamo guai, ci vuole anche quella. Oh. stato sempre confermato così. Io c'era un periodo che mollato, c'era proprio qua doveva mollare. Lì mi sentavano proprio eppure qua. Ho avuto la pazienza per vedere che il crollo entra, mi hai fatto contento. Non sto più nei canali bassi, sto nei canali alti. Questa è una scelta che ho fatto. Modulo con l'altro baracchino, con questo, quando mi va, se no adesso perché stavo diventando sordo, è tutta la gira che mi rimbomba da Reci, capite? E allora un po' lo facciamo riposare, dai. Sto lavorando alla grande con la radio, sono contentissimo. Non la volevo piazzare mia, tu, non la volevo piazzare. E invece qui, dove tosci la piazza, mi diverto anch'io come fanno gli altri. E così ha giovato, intanto qua non ha nessun fastidio perché la stanza è chiusa, non me la fotti nulla. Ah sì, grazie, ma che te la frutta. Ma abbiamo sempre stabilito, no? Le persone sono poche, sincere, la greppa nostra ce l'abbiamo, problemi non ce ne mettiamo. Chi ci vuole ascoltare ci ascolta e chi non se la comprende quel paese, ma chi se ne frega, capito? E grepparete a uscire, siamo in 38, cosa rete, capito, va bene. Mi può parlare, ci uscì tutto e mi ha salutato Ciccio Bello, Iuri, era lì vicino a Taranto, mi ha mandato i saluti a tutti gli amici della greffa di Borore. Negativo, me l'hanno fatta. Vabbè, a me me l'ha detto Natalino, non è che la dinamica. Capo. Però questo è forte, non c'è il problema, la radio è bella forte, bella chiara. L'unica cosa che c'è che rimane un po' strano, mi capito? Non te lo so neanche spiegare come rimane, ma neanche gracchiante, un po' buono. Sai cos'è Massimiliano? Che io ho il tunnel a zero qua adesso, eh? No, è un problema di tunnel, perché l'MBP5 l'ho usato così là perché c'è la voce grossa. Va bene che va bene. Dobbiamo fare anche quest'altra modifica. E al limite una domenica ci organizziamo, prendo il mio, lo apriamo, li apriamo tutti e due e si vede quello che c'è da fare. Forte. Attenzione, giù qualcosa e è più positivo, dai. Sentirsi con tutte quelle modulazioni, Flavio, è una cosa allucinante veramente. 50 tanto sono uno vicino all'altro, modulano uno vicino all'altro, capito? Magari uno scendendo dal passo del Brennero, l'altro facendo l'altra zona lì del della, come si chiama? Magari dei Pirenei, l'altro scendendo, cazzo, si incrociano tutti perché siamo tutte delle grandi vallate, delle grandi montagne, come se una favella e c'è vendeggia nei canto bene. E a me io la 48 mi arrivano tutti al massimo, 9,20, 9,20, 9,20. Ma con questo che è più selettivo, 9, 9, 10, ma non si spostano da lì, eh. Aspettino, no, è vuol dire, diciamo, una bella, delle belle zone di montagna, tutto aperto, lì arrivano sparati, eh. Sono tutti in alto, capito? La vita Guido era per venire da Strasburgo, Crogiani è Strasburgo, quell'altro dal passo della Francia, e non c'è niente da fare. Ho sentito anche Angelo, ma Angelo era Giampaolo l'altro giorno, Giampaolo Brigante, ed era in Corsica. Addirittura. Vabbè, lui sta tutta la settimana lì. Solo che quello lo tappavano, siamo portati al 47, boh, non la gente c'è più, vado a fare da muglio. Cazzo, vero. Ascoltavo. E un mezz'ora, già meno, infatti poi è entrato Gigino, ed è sparito, non si è più sentito, non lo so cosa sia successo. Bene, potevo andare in meglio, dai, non mi piace, modulazione troppo bassa. MAS. Ma cos'è il MAS? Siamo dove siamo arrivati tu? Veia. Lo ascolti con il microfono normale, non le dice niente. Questo spinge, non è che lo spingerò. Io lo ascolto troppo basso come modulazione. L'altro è più forte. L'altro è più forte. Cazzo, se c'è il microfono normale, Lumi, ma nel coglione lo stai. Una stanza vuota e quando modula rimbomba un po' la sua voce. voce, tutto lì, non dico che è truffa, però abituato a avere l'orecchio sempre a solita modulazione ti devi riabituare, capito? No, nella 48 da combattimento sul canale 45, qua quando siamo sul 10 ci dobbiamo rilassare, allora usiamo questa, capito Antonio? Non esce molto bene, ho detto anche con quel MBP5, il Mobico. L'altro adesso lo mandiamo a fare la modifica. Tomei, sei uscito dalle gallerie? Già lì tu, perché? Passato il bivio di muro su Carcere. Con questa radio, con questo 430 lo ascolto sempre più basso degli altri radio a domenico. No, ho capito perché. Come diventa in disordine a fottere il bigliacco e il radio? No, lo sai cos'è, che siccome è più selettiva, lo fa, E lo fa, però non lo deve fare. Ancora la 48 con i baracchini, con il 440, con i 140, i 80, il 950 lo ascolto sempre a palla. Con questo 430 lo ascolto sempre più basso. Non ho capito perché io. Ma lo saprei. Dove? Domenico. Ascolta, come va adesso la modulazione? Antonio, grazie del contizio. E a tu? Per me vai bene, non so cosa dirti, poi se a qualcuno non piace non lo so. La radio è forte, è chiara, è pulita, è amplificata, cosa vuoi di più? Infatti. E va bene, ci accontentiamo, dai. Posso dire la mia se non vi dispiace? La tua? Per lo stesso, però manca. Adesso ora manca qualcosa adesso. Qualcosa piace a me, vieni. No, che va bene. Cosa devo fare? Ah vai, che questa qua è troppo cupa, voi esagerate. Allora, ti spiego una cosa, Antonè, senza fare maestro nessuno, Quando tu c'hai un microfono da tavolo, ascoltate a falchetto con un microfono da palmo, la tonalità cambia. Quindi, giustamente, quello che hai detto tu, manca la timbrica. È chiaro che manca la timbrica, è completamente diversa. Perché? Perché col microfono da tavolo, rimettilo com'era tu, fammelo vedere. Col microfono da tavolo c'ha le tonalità medio-alte, col microfono da palmo c'ha le tonalità medio-basse. Capito? Quindi tu abituato a sentirlo con le tonalità medio-basse, sentendolo con i toni alti cambia la timbrica di modulazione. Però non mi dire che è brutta, capito? No, assolutamente, sto dicendo che è brutta, è comprensibilissima, è quello che tutto ha l'effetto di pulizia della modulazione, capito? Non c'è, non so, me lo sento molto, molto pulito. Invece con l'altra c'è questo mi vuole sentire, non è che sto sminuendo la sua modulazione. No, ma cambia la timbrica, capito? Cambia praticamente la timbrica, hai pienamente ragione. Cambia la timbrica, le tonalità microfoniche soprattutto, quindi è un accorgimento che mi sta bene quello che hai detto, benissimo. Però io la sento abbastanza presente, abbastanza forte, abbastanza chiara. Telefonate a poche parole, dai. Gappa. Sì, ma si conferma quello che ha detto Claudio. Sono due cose diverse, dal palmare al microfono da base è tutta un'altra storia, ecco. Quello che si deve, purtroppo nel senso buono si deve dire. Ma il piacere. Mi piace molto questa modulazione, quella che io ti ascoltavo sempre praticamente, è che invece di avere tutti quei connettori e adattatori adesso ce l'hai diretto, capito? Ma non hai cambiato niente. Per me va più che bene, perlomeno, Antonio. Io non esprimo la mia, come giustamente tu hai detto la tua, ci mancherebbe altro. Però quando cambi la tonalità è diversa, cosa mi hai detto poco fa tu? Ecco, questa è la tua. Se io adesso commuto la HB23, guarda, adesso io lo accendo. Aspetta che commuto l'antenna. in sé, come cita anche se un semplice baracchino, è nel vero senso della parola. Questo c'ha molto più timbro di modulazione, quello sì, ogni apparato c'ha la sua personalità, è senza ombra di dubbio, però questa la sento più potente, più chiassosa a me. Lo so. Dunque ti piace questa modulazione? La verità siamo lo si ascoltare che mi piace, poi voglio anche una sua voce, io la vedo perfetta. Vabbè. Prova a vedere tu che ti ascolto col baracchino, vediamo. Guarda, quello non ci sono soldi da pagare, è troppo bello, c'ha quella modulazione pulita, guarda, chiarissima, una telefonata. Questo è un regalo di Gigino Vulcano, non ce n'è per nessuno, sono HB23, il microfono è mio, ne avevo due e ho dovuto contraccambiare. Questo è il Tram più 3 e l'altro lato a Gigino, anzi questo è il Tram più 3 Super Sideric. Questo è il Super Sideric, invece a Gigino l'ho dato il Tram più 3 normale, capito? Però dico, cioè la differenza che noi guardiamo in queste cose è soprattutto la timbrica, Antonè, non è che guardiamo la potenza, perché anche l'MC60 esce molto forte di radio, non mi dire che non è forte, no? C'hai qualche problema al microfono, Antonè? Sicuramente, aspetta. Sta uscendo, sta uscendo. La parola più giusta quando cambia, sì, niente di particolare, infatti anche sono sempre gli stessi, però la tipica cambia sempre, quello niente, senza ombra di dubbio. No, qua i watt sono molto meno, qua sono 4 watt col baracchino normale, se vuoi ti faccio sentire quando attacco che cambia, guarda, così sono 4 watt e così sono 80 watt, è cambiato, senti la modulazione come c'è l'accordo, lineare, baracchino, microfono, senti che non ha cambiato niente. Beh, secondo te non ha cambiato niente, però... No, di fatto ha cambiato, ma di modulazione non mi dire che ha cambiato, eh. No, di modulazione è sempre la stessa la modulazione, è che è arrivato qua a Mongoscala, sino a fondo. Da 4 watt a 80 watt è chiaro che cambia, eh. È chiaro che cambia, però sto dicendo, non cambia la timbrica di modulazione perché c'è talmente accordo tra lineare e baracchino che non deve mai cambiare la modulazione, deve rimanere sempre stabile così come la usi quando non hai l'amplificatore attaccato, perché guarda, così è attaccato e così è staccato. Ok, non cambia assolutamente niente la modulazione. Veramente d'accordo, sembra che tutto sia equilibrato, quello senza ombra di dubbio, rimane così che mi rompi l'indicatore della lanterna 4 cuoricino. E anche tu sei 9.30, vabbè siamo tutti vicino, anche se sei in paese, tu ma sei di fronte a me, di fronte a Falchetto. Non ci stanno problemi, vai zio Falchetti. Guardi, ma è come mi ascolti con quella radio, fra? Una bomba Gilda Giudito, per me va bene, è come ti ascoltavo sempre, io ti ho sentito sempre con questo microfono, capito? Forse Antonello no, ma io ti ho sentito sempre con questo microfono. Tu non lo usavi perché ci avevi tutti quegli adattatori, mezzo alle valle, ti si staccavano le valle varie. Adesso che la radio c'ha il microfono diretto, è la cosa più pulita, esce molto meglio, è anche più bella così da usare, no? Sì, è vero. Con tutti questi adattatori era un casotto veramente, si staccavano, li collegavi, non uscivi o non uscivi, sempre qualche problema c'era, la verità. No, adesso ho notato che è più pulita, più anche dallo smitter mi accorgo che sta girando bene, dai. No, veramente mi sento meglio adesso, non so perché, se sono arrivato a casa, no? Che devo scaricare i bidoni, adesso ti sento ancora meglio. Abbiamo fatto una magia con Claudio. Porca accidente, Giacomo, guarda, se tutto va bene e il maestro non è impegnato, devo andare a casa sua domenica, che fare vedere una cosa. Ciao, persone rimaste in radio che, anche se da qualcuno non ben visto, però ho sempre una parola e la mantengo. Vuoi chiedere ad Antonio, le parole le mantengo e non faccio, capito, parole, faccio anche fatti quando servono, quindi fatti non parole. Grazie per quello, infatti, è per quello che ne voglio approfittare, così imparo, no? Che queste cose già mi piacciono, la verità, una delle poche cose che mi piacciono, mi danno la possibilità di imparare. Comunque, zio Falche, ti volevo dire, l'hai letto la Nuova Sardegna sulla pagina 25? Sì, stavo leggendo, però, ripeto, c'è sempre un punto interrogativo. Io secondo me, io non, guarda, non voglio, la verità, scusate la parola, leccare il culo a nessuno, attenzione, non sto leccando il culo a nessuno, sto dicendo solamente quello che penso, né più e né meno. Se il maestro sta con noi, il punto esclamativo, il punto di domanda, o i due punti, metti tutti i punti che vuoi, se ne vanno, secondo me, poi quello sempre dipende da lui. Kappa, te l'ho detto, è tutto da verificare, Antonio, è inutile che stiamo lì a battagliare, a fare, a dire, già mi hai capito, dai. Ehi, ho capito, sono d'accordo, ma dobbiamo rivedere questo, se tanto tempo fa chi ci ha provato, diciamo, è andata male, ora sì che ci sono sbagliate. Delle persone giuste, ripeto, nessuno è perfetto, però so che ci siano delle persone giuste e non perché uno, per dire, è arrivato a 50 anni non la voglia più di scorreggiare, anzi io vedo che la passione c'è sempre, perché non coltivarla, però se che sia arrivato al momento giusto di realizzare, diciamo, i progetti che altre persone hanno messo in movimento e è andata male. Questa volta perché no, non può andare bene? Te l'ho detto, è tutto da vedere, vai qua. Ehi, Antonio, io ho già detto ad Antonio, non mi voglio inserire perché, per mille motivi, perché intanto so poi come va a finire, non, purtroppo ci sono persone con le quali io non leggo e quindi non mi sta bene, no, non voglio avere problemi. Ho deciso di rifare radio qua ai 27 a modo mio e nessuno si deve permettere di dirmi manco qua. Capito, Antonio? Qua volevo parlare seriamente così sul canale 10 e farmi due chiacchiere con le persone. Di radio ne ho quanto ne voglio, mille microfoni, mille radio. Se poi mi devo divertire come fanno gli altri, collecco, me ne vado sul canale 45 e mi metto a scazziare come fanno tutti. Non voglio avere più niente a che fare io con le associazioni. E con gente soprattutto che non può stare assolutamente al mio fianco. Già non si perde nulla, dai. Antonio, noi ci siamo conosciuti, siamo visti, sei una persona speciale. Sappi che Claudio è sempre a tua completa disposizione, per qualsiasi cosa tu abbia bisogno, capito? Ti auguro che vada sempre tutto bene, ma qualsiasi cosa tu abbia bisogno sappi che puoi contare su di me. Altro non ti posso dire, come ho detto ad Antonio, però non voglio avere niente a che fare io con altre persone, voglio vivere la mia vita tranquilla e sereno. Gli amici ce li ho, ci sto assieme, mi ci diverto, ma sono amici completamente diversi da quello che puoi pensare tu. Tutto qua, non so cosa aggiungerti. lui è più esperto di me. Vai. Buonasera, Claudio Sparviero da Sassari, in compagnia di Antonio Falchetto e di Antonello. Di cosa hai bisogno? Ah, cacere, sì, infatti il segnale è alto, abbastanza alto. E cosa hai bisogno, Enrico, dimmi? Passa un po' il microfono ogni tanto. niente, va bene, dai, io vi saluto che porto l'acqua a casa, che non c'è niente, va bene, dai. Nel caso, se siete sul 10, sentiamo sul 10, se no alle prossime, dai, perché ancora il canale 45 ancora non ce l'ho. Va bene, vi auguro buona serata, se nel caso ci sentiamo più tardi, dai, tanto va più tardi. D'accordo Antonello, salutone belli, buona carica con tutto, vai, grazie. Ciao Antonio, ci sentiamo allora, stiamo a vedere alle prossime, se coincide ci sentiamo altrimenti tutta domani. Stavo dicendo qualche, ma tu c'hai la colonia, quella che ti ho dato io, no? L'esterna? Sì. Beh, già la stai usando, sì. Allora. Quindi la ricezione già è buona, dovrete attaccare al Mobico all'87. Al Mobico. E quindi senti bene, meglio di dell'autoparlante esterno. Sì, è tutta l'altra minestra, è tutta l'altra musica, Claudio. Ah, è positivo. Adesso perché ho visto la mia, mi sono ricordato, ho detto, Antonio già gli avevo dato quella piatta piccolina con la staffetta, ti ho dato, no, della Inter che mi sembra. Sì, quella nera piatta piccolina, sì, con la staffetta. Esatto. E quella lì ce l'avevo in macchina lo stesso, ma non molto bene con le colonine. Non ne ho più trovato così, Ho trovato quelle altre alte, quadrate, invece quella così rettangolare è molto bellina. Molto più bella, non hai più avuto di chi. Molto più bella, poi spinge molto e c'hai un altoparlante che è la fine del mondo, si sente chiarissima, pulissima. Allora, non c'è una mollezza, va tutto bene. Allora Enrico, dove sei? Vedi, la punta è scagliata, io sono in alto, un attimo in alto è scagliata. Sì, stazione fissa. Se no non mi chiamavano a torre di controllo. Siccome sono in alto, ricevo a tutti, allora mi hanno messo a torre di controllo, ma il mio vero nome attivo è Sparviero, Claudio Sparviero. Quello è un sistema di ancoraggio per la macchina, veloce, quando hai finito il modulare la prendi, ti racchiudi dentro il cofano e sei a posto, vero? Vero Enrico, dentro il cofano ce la metti a casa e te la butti. Se l'antenna la stacchi dalla macchina, la porti a casa. Quello sì, avanti a tu. Enrico mi ascolta a me, perché io sono piccolino e nero, Enrico. Ho detto io sono piccolino e nero. Io sono 4 watt. 4 watt, però lui è dall'altra parte adesso. Ma stai entrando in galleria? Sei fermo, in mezzo a strada. Ah, ma già lo senti a Falchetto allora, sì. Se non parla, avanti Falchetto. Enrico, mi ascolti, Enrico. Io sono qua vicino ai carabinieri, Sono il secondo dopo la torre di controllo. Non mi ascolti in quelle coordinate? Meglio così, dai. Parchetto sono comunque, salottoni, ben sentito con la primiera. E giù, giù. Oh, il parito. Mentre non sono, è una fama che le sono 9:10. Aspetto mia figlia alle 9:30, che rientra al lavoro, e poi me ne vado a cenare, perché è di tutto, tutto, che faccio Luca Babbo Buglioni oggi, anche oggi ho fatto un bel casino. sa che mi ha dato proprio l'ok perché mi stanno chiamando, io vado a fare carica, e niente, ti ringrazio momentaneamente Claudio, dai, ci aggiorniamo domani. No, ma non mi devi mai ringraziare. Ci sentiamo, se coincide, ci sentiamo dopo, se magari entra Gigino sul 45, non so. Ci sentiamo dopo, magari entra anche, ma ci vediamo. Se no, se non sento nessuno, spengo tutto e mi guardo la televisione. Ok? Ehi, d'accordo, Claudio, allora metto sul 45 già adesso. Se sento qualcuno buono, se no anch'io spengo tutto e... E ci saremo domani. Io ti auguro una buona carica, un buon tutto, Claudio, e... A correndere, dai. Ehi, non ti preoccupare. D'accordo, ciao Enrico, io vado a cenare. Ci sentiamo se coincide più tardi, se no... Grazie per essere entrato e ci sentiamo alle prossime, va bene? Figurati, un dovere, non ci sono problemi. Se devi mettere un'antenna a casa, vai, ti compro una mini Grand Play, una Grand Play, qualcosa che ti faccia uscire più forte e tu parli tranquillamente con i camionisti. Ciao Enrico, alle prossime, ciao ciao, ciao, altro ci sentiamo dopo, allora cambio e metto sul 45. Ok, ok, dai, a più dopo se coincide. Ciao Enrico, tante cose belle, buon rientro, buon tutto. Vabbè, ci vediamo, ci sentiamo a più dopo sul 45, dai, che anch'io vado a caricare. Capo di positivo, a dopo, ciao. Ciao, Claudio, ciao, ciao.